Sono le 13. GR24, il sole 24 ore, edizione extra large. Riaprono le scuole, nelle tende l'Aquila alla ricerca della normalità mentre il governo cerca i fondi per la ricostruzione. Una task force vigilerà sulle infiltrazioni mafiose. Una speranza di ripresa dai dati dell'auto. A febbraio il mercato prova a ripartire. La presidente degli industriali Marcegaglia: forse davvero il peggio l'abbiamo visto. Picchiato a sangue durante una rapina, un gioielliere a Milano spara al bandito che l'ha aggredito. Sono entrambi in ospedale. Tre sbarchi in poche ore, presa d'assalto Lampedusa. Dall'Europa nuove critiche all'Italia per le norme sui clandestini. La Costituzione italiana sempre attuale, dice il presidente della Camera Fini, e ora diventa anche un film. Via le truppe russe dalla Cecenia, Mosca volta pagina. GR Extra Large, buongiorno da Alessio Maurizi. Buongiorno da Anna Migliorati. Più avanti parleremo della giornata all'Aquila con i bambini che riprendono la vita scolastica. Adesso però la cronaca. Milano, un gioielliere malmenato durante una rapina ha estratto la pistola e ha sparato. Il ladro è gravissimo in ospedale. Il fatto è avvenuto a Cinisello, alle porte di Milano, questa mattina, era poco prima delle 10. Si riaccende così anche la discussione sulla legittima difesa e sulle rapine violente. Allora, a raccontarci cosa è accaduto, in diretta Giovanni Capuano. Sì, buongiorno, e partiamo dalle condizioni del rapinatore ferito. Sono molto gravi, secondo quanto si apprende. L'uomo, che è stato descritto dal gioielliere come un giovane con accento romeno, è stato raggiunto da almeno 4 colpi di pistola sparati a corta distanza al termine di una colluttazione. Tutto è avvenuto nel centro di Cinisello Balsamo, erano da poco passate le 9:40, momenti di concitazione e tensione che sono stati descritti così da alcuni testimoni. Ha sparato, ho picchiato a sangue, lui ha tirato fuori la pistola e ha sparato e l'ha colpito in pieno, poi l'ha portato là nel retro e l'ha messo là, ma era conciato male anche lui. Ho sentito urlare dei colpi, ma come se si azzuffassero di botte, delle urla ripetute, ho chiamato il 113. Arrivati i carabinieri e ha detto: l'abbiamo preso. Secondo quanto ricostruito dai carabinieri, che stanno completando proprio in questi minuti i rilievi scientifici, i rapinatori erano 3, erano vestiti con pettorine da netturbini. Solo uno è entrato armato con una pistola scacciacani, ha chiesto al gioielliere di poter vedere un orologio, quindi lo ha colpito. Immediata la reazione del gioielliere Remo Radolli, 50 anni, ci sono stati 5 spari, poi la colluttazione che è finita sul retro del negozio. Il rapinatore è rimasto a terra ed è ricoverato all'ospedale Niguarda. Il gioielliere ha portato una profonda ferita alla testa, in questo momento è ricoverato all'ospedale Bassini di Cinisello. Rabbia da parte dei commercianti della zona che lamentano scarsa sicurezza, e molti questa mattina ci hanno raccontato di aver scritto negli scorsi mesi al comune per segnalare il ripetersi di episodi di microcriminalità. Non è questo il primo episodio di reazione a colpi di pistola da parte di un gioielliere a Milano e nell'Interland. Non più tardi di 2 mesi fa si è chiuso il processo per il caso di Piazzale Baracca. In questo caso il gioielliere è stato riconosciuto colpevole e quindi condannato per una reazione spropositata. Grazie a Giovanni Capuano. E ci sono tra l'altro novità, sviluppi anche per il duplice omicidio avvenuto ieri a Posillipo. Il procuratore di Napoli, Lepore, poco fa ha firmato un decreto di fermo nei confronti di un immigrato romeno in relazione all'omicidio dei coniugi Ambrosio. La posizione di altre persone identificate è attualmente al vaglio degli inquirenti. Secondo quanto si è appreso, l'immigrato romeno sarebbe stato individuato per l'uso di uno dei cellulari rubati nella villa dell'imprenditore. Ricordiamo che Ambrosio è stato trovato ieri assieme alla moglie ucciso nella sua villa a Posillipo, entrambi uccisi apparentemente da colpi di bastone. Governo a caccia dei soldi necessari per la ricostruzione in Abruzzo. In queste ore si fanno i conti e intanto oggi Berlusconi torna all'Aquila. Vincenzo Miglietta, buongiorno. Sì, buongiorno. L'Aquila e la sua provincia cercano lentamente di tornare alla normalità e l'inaugurazione oggi da parte del Presidente del Consiglio Berlusconi e del Ministro dell'Istruzione Gelmini della prima scuola da campo nella frazione di Poggio Picenze è un ulteriore segnale positivo per chi la notte del 6 aprile ha perso tutto. 3 tende, 30 i bambini di elementari e materna coinvolti e che oggi riprendono le lezioni. Il Ministro Gelmini ha già confermato che lunedì prossimo riapriranno la maggior parte delle scuole nei comuni dell'area abruzzese non interessata direttamente dal sisma. Oggi nel capoluogo abruzzese è presente anche il ministro per i beni culturali Bondi, che effettuerà nello specifico dei sopralluoghi al Museo Nazionale e al Duomo. Il capitolo ricostruzione e fondi necessari. Poi sempre la prossima settimana il Consiglio dei Ministri si riunirà all'Aquila. Tra le ipotesi allo studio per contribuire a raggiungere la cifra ipotizzata di 12 miliardi di euro, vi sarebbe anche un contributo obbligatorio per i redditi più alti, superiori ai 100.000 euro, 130-140.000. Palazzo Chigi tuttavia su questo ha già fatto sapere che nulla è stato deciso e che quindi quanto circolato nella serata di ieri è attualmente infondato. E da Roma è tutto. Grazie Vincenzo Miglietta, all'Aquila torneremo anche più avanti, le inchieste, la vita che riprende, ne parleremo più avanti. Qualche piccola buona notizia sul fronte economico. Come accade spesso di questi tempi, più che di segni di ripresa si tratta di segni di rallentamento della contrazione economica. Vengono dal mercato dell'auto, con Fiat in particolar modo positiva. Sentiamo Gianprimo Quagliano, Centro Studi Promotor. In Europa in marzo le immatricolazioni di autovetture si confermano in frenata per l'undicesimo mese consecutivo, con un calo del 9%. Dal quadro statistico diffuso oggi dalla CEA emergono tre elementi di fondo. Il primo è che la caduta delle vendite sta rallentando. In febbraio la contrazione fu infatti del 18% ed in gennaio del 27%. Il secondo elemento importante è la brillante affermazione del gruppo Fiat, che in marzo vede le sue immatricolazioni crescere del 14,3% e la sua quota di mercato salire al 9,1% dal 7,2% di un anno fa. Il terzo elemento è costituito dal fatto che il recupero in atto è dovuto esclusivamente agli incentivi alla rottamazione. Le prospettive per il futuro appaiono mediamente positive, anche perché, oltre a quelli che le hanno già adottate, altri paesi hanno allo studio l'introduzione di misure di sostegno della domanda. E un altro segnale: nei 16 paesi di Eurolandia il calo della produzione industriale anche qui rallenta, seppur continua la flessione su base mensile. Secondo i dati resi noti oggi da Eurostat lo scorso febbraio, la flessione appunto della produzione industriale rispetto a gennaio è stata del 2,3% contro il 3,5% segnato a gennaio su dicembre 2008. Rispetto a un anno fa il calo della produzione industriale resta comunque, come atteso, più pronunciato, registra un meno 18,4%. E allora su questa congiuntura il commento della Presidente degli Industriali Italiani Emma Marcegaglia al microfono di Paola Cavadi. Un elemento che rende, come dire, l'imprenditoria italiana orgogliosa e fiera, quindi bene questo dato. Certo la congiuntura rimane una congiuntura complicata, però assistiamo a qualche debole ma comunque presente indicatore che sta a segnalare che probabilmente il peggio l'abbiamo visto e che forse proprio adesso comincia una difficile ma comunque presente possibilità di ricrescere e quindi di ritornare a un livello di economia meno peggio di quello che abbiamo visto in questi mesi. Per il terremoto si parla di una tassa sui ricchi o comunque di un una tantum fiscale? Aumentare le tasse non è mai una cosa positiva. Si tratta di capire se ci sono altri modi per aiutare i terremotati. Tutti noi ci stiamo mobilitando per raccogliere fondi, quindi insomma io aspetterei per capire se questa è un'ipotesi vera o no. Noi in generale siamo abbastanza contrari all'aumento di tasse in un paese che ha già un livello di tassazione molto alto. Tre sbarchi in poche ore. Voltiamo pagina. Lampedusa presa nuovamente d'assalto dai barconi di clandestini. Tre sbarchi in una manciata di ore e l'isola italiana più vicina all'Africa si ritrova con altri 350 immigrati da gestire. Il primo barcone è stato intercettato nella notte. A bordo c'erano 239 migranti, tra cui 45 donne e due bambini, come spiega il maresciallo Giuseppe Labiunde della Guardia Costiera. Tramite satellitare l'abbiamo avuto la segnalazione. Un numero satellitare che ha contattato la capitaneria e ci ha detto che c'era questa imbarcazione in quella posizione. All'alba un'altra imbarcazione viene avvistata quando era ormai arrivata nel porto e ha portato a riva 62 immigrati, tra cui 15 donne. Il terzo sbarco in mattinata, questa volta neppure una barca, ma un gommone con a bordo 46 persone, soccorse da una motovedetta dei carabinieri. Per ora l'amministratore del centro di accoglienza di Lampedusa, Cono Galipò, minimizza problemi di sovraffollamento. La situazione al campo è totalmente tranquilla, perché questi che stanno arrivando li stiamo assistendo qua al porto e vengono trasferiti in giornata per Porto Empedocle. Ci sono due persone incinte, due donne incinte e due bambine. Sull'isola intanto splende il sole, il mare è piatto, non sono esclusi nuovi sbarchi. Valentina Furlanetto, GR24, Il Sole 24 Ore. E intanto, indipendentemente dai nuovi sbarchi, ma arrivano le critiche dal Consiglio d'Europa all'Italia sul decreto sicurezza e sulla denuncia dei clandestini da parte dei medici, che Radio 24 è in grado di anticipare fra tutti i mezzi di comunicazione. Sentiamo. Nonostante siano stati intrapresi degli sforzi, permangono serie preoccupazioni sulla situazione dei rom in Italia, sulle politiche migratorie e sul mancato rispetto delle sentenze della Corte dei diritti umani. È un rapporto con più ombre che luci, quello reso noto questa mattina dal commissario per i diritti umani del Consiglio d'Europa, Thomas Hammarberg, su immigrazione e xenofobia. La stoccata a sorpresa compare nel capitolo sul decreto sicurezza, ora all'esame della Camera. Criminalizzare gli immigrati rappresenta una misura sproporzionata che rischia di accendere ulteriori tendenze discriminatorie e xenofobe nel paese, scrive. Profondamente ingiuste, così le definisce il rapporto, le misure che consentono ai medici di denunciare i clandestini. Il report chiude almeno per ora un ciclo di indagini avviato da Strasburgo la scorsa estate sull'onda del clima di intolleranza verso i rom. Hammarberg chiede alle autorità italiane di condannare con maggiore fermezza tutte le manifestazioni di razzismo o intolleranza e di assicurare l'effettiva implementazione della legislazione antidiscriminazioni. Il commissario, che propone l'istituzione di un difensore civico per i diritti umani, batte molto sul tasto del miglioramento delle condizioni di vita dei rom, condizioni ancora inaccettabili in molti campi che ho visitato, scrive. L'attacco finale è tutto per le deportazioni forzate di immigrati in paesi che praticano la tortura. L'Italia ha ignorato la nostra richiesta di fermarle, denuncia Sergio Nava, GR24, Il Sole 24 Ore. La notizia ve l'abbiamo data ieri, la scarcerazione a Bari di 21 presunti mafiosi per le motivazioni della sentenza depositate in ritardo. E già oggi è partita a tambur battente l'istruttoria del CSM. La prima commissione di Palazzo dei Marescialli ha convocato per il 28 aprile prossimi vertici degli uffici giudiziari baresi. E facciamo un salto indietro di oltre 60 anni, parliamo della Costituzione italiana, che adesso diventa un film, che è stato presentato questa mattina. La Costituzione italiana è composta da meno di 10.000 parole. 9.369 per l'esattezza. La voce è quella dell'attore Neri Marco Re. È lui ad interpretare la rinascita del Parlamento, il video documentario voluto dalla Fondazione della Camera dei Deputati per ripercorrere un periodo cruciale della storia del nostro Paese, quello che va dalla liberazione alle elezioni del 2 giugno 1946 fino all'approvazione della Costituzione. Siamo alla fine del 1947. La Costituzione, la prima elaborata da un'assemblea eletta a suffragio universale, è pronta. Alla Carta Costituzionale ha fatto riferimento il Presidente della Camera Fini, presentando stamattina a Montecitorio il documentario, che è ricco di immagini di repertorio ed è diretto soprattutto ai giovani delle scuole. Fini ha sottolineato la modernità della nostra Carta Costituzionale, una carta, ha detto, capace di passare attraverso i decenni vincendo l'usura del tempo. Quando giustamente si discute sull'opportunità di modificarla, nessuno propone cambiamenti della prima parte del testo, perché i principi e i valori restano gli stessi di quella fase memorabile della storia nazionale, ha detto il presidente della Camera. Andrea Viali, GR24, Il Sole 24 Ore, Roma. Atteso all'Aquila, come dicevamo, è arrivato proprio in questi istanti in Abruzzo il presidente del Consiglio Berlusconi. Allora cerchiamo di sentire in diretta le sue prime parole. E poi ci sono delle ipotesi di ricostruzione per togliere le persone dalle tende, che io credo funzionino, e abbiamo quindi la volontà di far sì che entro la fine dell'estate ci possano essere delle persone sistemate in case. Gli abitanti chiedono di che vengano ricostruiti dopo una settimana dall'emergenza. Qual è l'idea quindi che si è fatto riguardo? Lei non voleva fare bilanci. Oggi secondo lei quindi è possibile con cognizione di causa fare un punto? E sono le domande dei giornalisti che stanno circondando Berlusconi in questo momento all'Aquila. In confronto all'entità del sisma, le vittime sono state poche, perché potevano essere molte, molte di più. Quindi nel male c'è stata una fortuna. Per quanto riguarda gli edifici da ristrutturare o da ricostruire, siamo presa poco al 50%. Quindi il problema riguarderà il 50% delle persone che ora sono sistemate negli alberghi o nelle tendopoli. Il governo, io per primo, intende non costruire baraccopoli o men che meno tendopoli. Quindi intendiamo trovare alloggio a tutti, grazie alla disponibilità delle associazioni alberghiere, grazie alla disponibilità di molte famiglie italiane che hanno messo le loro case per chi volesse trasferirsi dall'Aquila in altre situazioni. Ma noi vorremmo, per la prima volta, prima che cominci il freddo dell'autunno, avere la possibilità di chiudere tutte le tendopoli. Molte le domande, sono ancora molti i giornalisti con Berlusconi, sentiamo ancora qualche istante. La formula che noi stiamo mettendo in atto è una forma elastica, per cui è garantita la vicinanza di ogni comunità al proprio paese, nel quale tuttavia poi ci saranno le ricostruzioni, che naturalmente, essendo ricostruzioni classiche, richiedono dei tempi che sono i tempi di sempre. Ecco, il frazionamento dei cantieri con responsabilità in tutta Italia da parte delle regioni e delle province consentirà di procedere in tempi molto stretti, perché procederemo con tanti cantieri aperti, con naturalmente una verifica nazionale, ma con singole responsabilità attribuite per i singoli cantieri. Quindi io credo che questa sia una formula buona. Un'altra formula che direi è molto interessante è quella che abbiamo stabilito, che chi vuole assumersi, e ha la possibilità di farlo, di costruire la propria casa là dove era, di restaurarla, oppure addirittura di costruirsi una casa da un'altra parte, avrà il sostegno dello Stato. Quindi credo che questo sia un fatto innovativo, importante, che dovrebbe dare a molti la possibilità immediatamente di ritrovarsi artefici della propria residenza futura. I piccolini che oggi tornano a scuola, che dice? La gente sta vedendo questa forte attenzione del governo, ha paura però di essere abbandonato prima o poi, che cosa dice? Ma che è una paura inesistente, perché la prima cosa che deve fare uno Stato, e quindi il governo, è di stare vicino ai cittadini che hanno bisogno. Noi in questo momento riteniamo che questa situazione che si è determinata dopo il terremoto sia, insieme all'uscita dalla crisi economica che riguarda tutti gli italiani, il principale impegno del governo. Quindi noi abbiamo anche messo da parte ogni possibilità per il futuro, per esempio per il partito di cui io sono presidente, che sarebbe stata molto positiva di andare verso il bipartitismo, ma francamente non ci sembra che sarebbe responsabile da parte nostra, nel corso di una crisi economica generale e mondiale, nel corso di una esigenza di ricostruzione immediata di un'intera provincia italiana, tre, mentre siamo responsabili del G8, del G14 e del G21, quindi mentre le aspettative dei protagonisti della politica di tutto il mondo convergono in Italia sotto la guida del nostro governo, di andare a inseguire, parlo del referendum, una situazione per noi molto favorevole come Popolo della Libertà, facendo cadere la maggioranza e il governo. Quindi anche qui abbiamo dovuto rinunciare a quello che per noi era un fatto molto positivo e che sta nel nostro programma, di arrivare non a un sistema bipolare ma a un sistema bipartitico. Quindi mi spiace che invece altri interpretano come una debolezza del Presidente del Consiglio e del Popolo della Libertà quella di avere ceduto a una precisa richiesta di un partito della maggioranza che, ove non accolta, avrebbe fatto cadere il governo in un momento come questo. Uno spreco di soldi che poteva essere... Lo ridurremo, d'altronde bisogna scegliere tra una cosa e l'altra, e lo ridurremo al minimo indispensabile andando durante il ballottaggio. Siamo lontanissimi dalle cifre che erano state dette, che comprendevano anche i costi dell'andare a votare e ritornare e i costi di un'eventuale assenza del lavoro per chi decidesse di andare a votare il lunedì. Quindi queste lasciamo da parte, queste polemiche non mi toccano, la decisione è stata presa, verrà confermata spero questa sera nel comitato di presidenza del Popolo della Libertà, ma queste polemiche sono veramente fuori luogo, adesso dobbiamo pensare al benessere dei cittadini. Dalla ricostruzione in Abruzzo a, come avete sentito, le polemiche sull'Election Day, così Berlusconi all'Aquila in questi minuti, alle sue spalle anche il ministro Gelmini. 13:22 minuti, GR24, extra large. Abbiamo sentito nella prima parte di extra large le parole del Presidente del Consiglio appena arrivato all'Aquila, ma abbiamo parlato anche della cronaca a Milano. il ladro ferito dal gioielliere, tutti e due adesso sono in gravi condizioni all'ospedale di Milano. E poi le novità che arrivano anche dopo il duplice omicidio di ieri a Posillipo: la procura e la polizia ha fermato tre persone, due romeni sospettati a questo punto dell'omicidio del re del grano. E poi i dati economici che per la giornata di oggi vedono le immatricolazioni di auto nuove risalire leggermente in Italia con la buona performance di Fiat. Adesso tutte le altre notizie dall'Abruzzo. Cominciare, come dicevamo, dai primi segni di ripresa, 10 giorni dal terremoto, che si vedono anche dai banchi di scuola. Oggi a Poggio Picenza, a pochi chilometri dall'Aquila, è stata inaugurata la prima aula tenda con il ministro dell'istruzione Maria Stella Gelmini. Nessuno perderà l'anno scolastico, ha assicurato la Gelmini. Allora andiamo all'Aquila in diretta con Marcello Ianni. Sì, buongiorno. Tre tende blu e alcuni vasi di ciclamini. Non è molto, ma è pur sempre una scuola che riapre. È stata riaperta stamane la scuola di Poggio Picenze, paesina alle porte dell'Aquila, che nel terremoto ha fatto registrare 5 morti, tra questi 2 bambini. La scuola ospitava 80 di studenti, tra la materna e le elementari. Le tre tende ospitano 2 classi elementari miste e una materna. 30 i bambini accompagnati dai genitori che si sono presentati alla riapertura. Intimiditi dalle tante telecamere e dai giornalisti che volevano intervistarli, i bimbi hanno scelto il silenzio. All'inaugurazione della prima scuola che riapre dopo il terremoto che ha sconvolto l'Abruzzo era presente il ministro Maria Stella Gelmini. Ascoltiamo. Abbiamo fatto proprio ieri un incontro con i prefetti per riaprire da lunedì nei territori non direttamente colpiti dal sisma le scuole che sono risultate agibili dopo i sopralluoghi che abbiamo effettuato. È chiaro che nella zona del cratere la situazione è complessa, ma la scuola rappresenta un servizio fondamentale, adesso anche una funzione sociale, quasi conviviale, di aggregazione. Lo vediamo in queste tendopoli dove i bambini hanno comunque la possibilità di trascorrere qualche ora in compagnia dei loro coetanei, qualche volta studiando e soprattutto cercando di superare il trauma. Grazie Marcello Ianni dall'Aquila. E c'è da dire che il procuratore nazionale antimafia Piero Grasso sta pensando ad una task force per aiutare il procuratore dell'Aquila ad evitare i rischi di infiltrazione della criminalità organizzata proprio nella ricostruzione. Ho già in mente di costituire un gruppo di lavoro nel mio ufficio, ha detto questa mattina durante la trasmissione Panorama del Giorno. Una task force composta da magistrati ed esperti anche nella criminalità che più tradizionalmente opera in Italia. Grasso ha proposto anche l'idea di una lista di aziende pulite che dovranno avere il ruolo di organizzatori. E prosegue intanto parallela l'inchiesta della Procura dell'Aquila per accertare eventuali responsabilità. 13 al momento gli edifici sequestrati. Sono già 13 gli edifici o le parti di edifici posti sotto sequestro dalla Procura dell'Aquila. Oltre all'ospedale e alla casa dello studente ci sono l'ufficio del catasto, lo stesso palazzo di giustizia e una serie di condomini. Un elenco che andrà sicuramente aggiornato man mano che il lavoro dei consulenti andrà avanti. Devono ispezionare gli stabili crollati, repertare e catalogare le macerie, nel capoluogo così come negli altri centri devastati dal sisma. E i sigilli della procura servono ad evitare che qualcuno tenti di inquinare le prove. Nell'inchiesta in cui si ipotizzano i reati di disastro colposo e omicidio colposo plurimo, al momento non risultano indagati. I magistrati però hanno già acquisito l'elenco dei costruttori degli edifici sequestrati. I primi rilievi parlano di cemento armato con tondini lisci e non zigrinati, come prevedono le norme antisismiche, e di pilastri non staffati. Alle analisi tecniche verranno affiancati i verbali dei testimoni, oltre alle segnalazioni ai video dei cittadini che lo stesso procuratore Caporossini ha sollecitato. L'altro filone dell'inchiesta aquilana riguarda la sottovalutazione del pericolo, un fascicolo in cui confluiranno gli esposti dei cittadini su una serie di allarmi inascoltati. Il dossier della Protezione Civile firmato Franco Barberi, datato 1999, che elencava i palazzi a rischio, fino al verbale della riunione della Commissione Grandi Rischi del 31 marzo scorso, 5 giorni prima del sisma, che rassicurava la popolazione e si concludeva così. La comunità scientifica conferma che non c'è nessun pericolo. Maria Luisa Pezzali, GR24, Il Sole 24 Ore. E sulla scia delle varie iniziative di solidarietà messe in campo in questi giorni, anche il nostro gruppo Il Sole 24 Ore si è mobilitato per le vittime del terremoto che ha investito l'Abruzzo il 6 aprile scorso. Ascoltiamo il presidente del gruppo Sole 24 Ore, Giancarlo Cerutti, in questa intervista di Gigi Donnelli. Diciamo prima di tutto che immediatamente noi abbiamo sentito il dovere, e voglio sottolineare la parola dovere, di attivarci per dare un nostro contributo fattivo, e sottolineo la parola fattivo, a questo dramma che ha colpito dei tanti concittadini. Dovere, io penso che spetta a tutte le persone e a tutte le società come la nostra dimostrare fattivamente che questa tragedia ha colpito i nostri sentimenti. Penso che la nostra iniziativa riguardante sabato prossimo sia qualcosa di reale, ponga all'attenzione di coloro che leggono il nostro giornale o seguono le nostre trasmissioni il fatto che Il Sole è in prima linea nel dare il proprio contributo. Penso che sia un'iniziativa che dimostra fattivamente, e non soltanto con la parola, che noi siamo là con loro. Intervenire in un territorio devastato da un terremoto è un compito che spetta in primo luogo allo Stato. Che ruolo svolge il privato cittadino e quale l'impresa in una circostanza così drammatica? Ma prima di tutto ricordiamoci che lo Stato siamo noi. Lo Stato non è un'entità astratta. Lo Stato è fatto da tutti noi che ogni giorno, attraverso i nostri atti, le nostre parole, quello che noi facciamo, dimostrano il loro reale interesse affinché le cose di questo paese vadano avanti. Quindi io credo che sia, diciamo così, conseguente a questo concetto, il fatto che noi come privati cittadini o noi come imprese intendiamo dare un nostro contributo, e possiamo darlo, lo possiamo dare in tanti modi e dobbiamo darlo. 24 ore per l'Abruzzo, vendiamo solidarietà, è l'iniziativa promossa dalle persone che lavorano al gruppo 24 ore, di cui fa parte anche Radio 24, per dare un contributo concreto in collaborazione con la Croce Rossa Italiana alla gente del territorio abruzzese colpita dal terremoto. Sabato prossimo, 18 aprile, le reti di vendita, i giornalisti, i dipendenti del gruppo 24 ore saranno nelle principali piazze di 12 città italiane, impegnati personalmente a raccogliere fondi a favore delle popolazioni colpite dal sisma. 13:34 minuti a GR Extra Large, le notizie di oggi. Berlusconi sull'Election Day: sarebbe stato irresponsabile, non potevamo far cadere il governo. Riaprono le scuole nelle tende, L'Aquila alla ricerca della normalità, mentre il governo cerca i fondi per la ricostruzione. Una tax force vigilerà sulle infiltrazioni mafiose. Una speranza di ripresa anche dai dati dell'auto. A febbraio il mercato prova a ripartire. La presidente degli industriali Marcegaglia: forse davvero il peggio l'abbiamo visto. Picchiato a sangue durante una rapina, un gioielliere a Milano ha sparato al bandito che l'ha aggredito. Sono entrambi in ospedale. Tre sbarchi in poche ore, presa d'assalto Lampedusa. Dall'Europa nuove critiche all'Italia per le norme sui clandestini. Via le truppe dalla Cecenia dalla mezzanotte scorsa. Mosca così ha provato a voltare pagina. Abbiamo sentito poco fa le parole di Berlusconi, ha detto: abbiamo scelto sull'Election Day di non inseguire sul referendum una situazione per noi favorevole e molto positiva come il raggiungimento del sistema bipolare facendo cadere il governo. Mi spiace che altri interpretano, ha detto ancora Berlusconi, come una debolezza del Premier e del Popolo della Libertà aver ceduto ad una precisa richiesta di un partito della maggioranza, la Lega, diciamo noi, che ove non accolta avrebbe fatto cadere il governo in un momento come questo, producendo una situazione irresponsabile. Questo dunque è il punto di oggi fatto dall'Aquila, dal Premier, sul tema però tutto politico che riguarda l'Election Day, il referendum che si intreccia con le elezioni amministrative. Berlusconi, l'abbiamo sentito in diretta, di fatto confermato così come la più probabile la data del 21 giugno per il referendum, accorpata dunque ai ballottaggi. E a puntare il dito sulla Lega è anche il presidente del comitato promotore, Giuseppe Guzzetta. Quello che si sta realizzando un atto di tracotanza da parte di un partito, la Lega, che è sempre più un partito di palazzo. Sono state questa mattina le sue parole a Radio 24, a Parliamo con l'Elefante, sentiamole. Tutti i referendum che hanno avuto successo in materia elettorale sono stati assistiti da pronostici nefasti, quindi potrebbe essere la conferma della regola. Noi ovviamente faremo la campagna per quale che sia il giorno. senza però mancare di segnalare che quello che si sta realizzando è uno sperpero e un atto di tracotanza che è stato imposto da un partito che si sta caratterizzando per essere un partito di palazzo ormai. D'altra parte sono 25 anni che la Lega esiste, i risultati della presenza della Lega si vedono, quello che andrebbe fatto è un sano e vero federalismo e mi pare che ne siamo ben lontani. La Lega sta perdendo l'occasione di spiegare ai propri elettori che è effettivamente un partito della modernizzazione del paese. Oramai è un partito che è perfettamente inserito nel palazzo e che quindi appunto ci dice che le province sono necessarie, che buttare i soldi dalla finestra non è un problema, esattamente quello che fanno i partiti più tradizionali. Così Guzzetta, dunque questa mattina parliamo con l'elefante a Radio 24. Salutiamo Stefano Folli, editorialista del Sole 24 Ore. Buongiorno Stefano. Buongiorno. Hai sentito però poco fa il Premier dall'Aquila parlare espressamente della possibilità di una caduta del governo. Insomma, la pressione della Lega era davvero forte. Si è rischiata una crisi? Io non so se si sarebbe arrivati a una crisi di governo vera e propria. Non c'è dubbio però che Berlusconi ha preferito non correre rischi. Proprio le parole del Presidente del Consiglio confermano quello che insomma, abbiamo scritto poi questi giorni, cioè che Berlusconi è stato molto tentato di cavalcare il cavallo del referendum, abbinandolo quindi alle europee, per arrivare al bipartitismo, per arrivare diciamo, a una resa dei conti con questo suo ingombrante alleato. Alla fine però in lui ha prevalso il realismo, poi naturalmente gli scoccia di essere definito lo sconfitto della situazione, l'uomo che ha ceduto alla Lega, però un po' la realtà è un po' questa, alla fine Berlusconi non ha avuto diciamo, il coraggio di arrivare alle estreme conseguenze e di sfruttare fino in fondo l'opportunità offerta dal referendum. D'altra parte rimane una grave ferita nei rapporti tra Berlusconi e la Lega, perché è chiaro che Bossi ha ottenuto quello che voleva e questo naturalmente probabilmente determinerà la salvezza della Lega come partito, che sarebbe stata, come sappiamo, frantumata dall'eventuale vittoria del referendum, però lascerà un strascico politico nei rapporti all'interno del centrodestra e d'altra parte sappiamo benissimo che ce ne sono stati già le avvisaglie su tanti temi su cui il punto di vista di Berlusconi e quello di Bossi non sono coincidenti. Questo è un aspetto interessante che potrà segnare i prossimi tempi della legislatura. Io non credo che Berlusconi abbia del tutto accantonato l'idea di perseguire il sogno che lui ha annunciato al Congresso del Popolo della Libertà, cioè di arrivare al 51%, che è molto irrealistico, però significa soprattutto entrare in rotta di collisione con la Lega. Con la Lega. A questo punto sembra ormai probabile che la data sia 21 giugno, cioè accorpamento col ballottaggio. È possibile che con questa data venga superato il quorum? Naturalmente è difficile prevederlo. Tutti i sondaggi che sono stati fatti in questi giorni da istituti primari dicono che siamo lontani dal quorum. Sarà ancora più difficile conquistare il quorum votando in una domenica di giugno inoltrato e senza il grande train, il grande ascensore che sarebbe stato dato dall'accorpamento con le elezioni europee. Quindi allo stato delle cose la risposta a questa domanda è difficile, però bisogna essere piuttosto scettici circa il quorum. Sì. Va bene, grazie Stefano Folli. A voi, ci fermiamo qua, editorialista del Sole 24 Ore. E verso il voto vanno anche molti italiani per rinnovare 63 province. Naturalmente parliamo e oltre 4.000 comuni. Si parla del referendum, ma c'è anche questo. Al voto anche città importanti come Bologna, Firenze per rinnovare la carica di sindaco, Milano per quanto riguarda la provincia. Da oggi cominciamo a monitorare le diverse campagne elettorali. Andiamo a Bologna. Romano Prodi l'ha definita un test nazionale. Sui giornali, invece, c'è chi le chiama un pasticcio alla bolognese. Sono le elezioni amministrative di Bologna del 6 e 7 giugno, quando la città sceglierà il nuovo sindaco. Nel frattempo, sotto le due torri, la campagna elettorale si fa sempre più agguerrita, mentre per la poltrona che Sergio Cofferati abbandonerà per trasferirsi a Genova, la corsa diventa 3. Un candidato per il centro-sinistra, 2 per il centro-destra. In testa nei sondaggi il Partito Democratico con Flavio Del Bono, al 40-45%. Ex vicepresidente della Regione e professore di economia all'Università, che ha vinto le primarie di dicembre, ieri Del Bono ha visto benedire la sua coalizione proprio dall'ex Premier. Dove c'è unione c'è vittoria, ha detto Prodi, commentando l'alleanza con dipietristi, popolari e Rifondazione Comunista. Una boccata d'aria per Del Bono dopo l'affondo di Cofferati, che nei giorni scorsi aveva definito il candidato PD senza un programma. Critici sull'Unione gli avversari del centrodestra, che la paragonano a quella di Prodi del 2006, buona per vincere ma non per governare. Ma anche fra loro, che si presentano con lista civica, la battaglia è ancora aperta. Favorito Giorgio Guazzaloca, sindaco di Bologna dal 99 al 2004, appoggiato dall'UDC di Pier Ferdinando Casini, che i sondaggi danno anche vittorioso su Del Bono in caso di ballottaggio. Ma per il centrodestra è sceso in campo anche l'ex patron del Bologna Calcio Alfredo Cazzola, appoggiato da PDL e Lega, con l'obiettivo di veder rifiorire la sua città. E intanto c'è anche chi, sulle elezioni, ci fa dell'ironia. La banalità dei cartelloni è direttamente proporzionale alle nuove idee dei candidati, il commento del fotografo Oliviero Toscani, che contribuì alla campagna elettorale del presidente della regione Vasco Errani. Maria Chiara Grandi, SGR24, Il Sole 24 Ore, Bologna. E intanto, sempre per quanto riguarda il PD, si va delineando il quadro dei capilista che il Partito Democratico schiererà alle prossime europee a largo del Nazareno, danno ormai per scontato, un'agenzia di pochi minuti fa, il sì di David Sassoli, l'anchorman del TG1, che dovrebbe guidare le liste nella circoscrizione centro, così come Cofferati guiderà il nord-ovest e Rita Borsellino le isole. Allarme per un sito internet di anarchici con nomi di obiettivi e indicazioni per colpirli. A Ferrara, due gli indagati, è stato individuato un sito anarchico con un allegato di 23 pagine contenente una lista con nomi, indirizzi e numeri di telefono di questore, sindaco, politici locali, carabinieri, sedi di banche, sindacati, agenzie interinali, tutti indicati come possibili bersagli. Ne parla un articolo dell'edizione ferrarese del Resto del Carlino, che dà notizia di un'indagine in corso. Ben diversa, perché stiamo parlando non di realtà ma di fiction, è però la provocazione del film Shooting Silvio, che fa indignare alcuni esponenti del Popolo delle Libertà. Sentiamo. È corsa assolutamente imprevedibile. Stasera è anche capace di staccarsi un braccio e giocarsi a frisbee. Corsa. Se adesso mi chiamano così, perché avrei dovuto darle un altro nome? Ah, beh, certo. Ecco il trailer provocatorio e surreale del film Shooting Silvio, storia di uno scrittore fallito che pianifica l'omicidio di Silvio Berlusconi. Ho visualizzato la punta dell'iceberg, la sorgente del fiume d'eredità in cui tutti stiamo negando. È Silvio Berlusconi, ragazzi. Film trasmesso da Sky, che ha provocato la reazione indignata di molti deputati PDL, l'onorevole Beatrice Lorenzin. L'ho trovato di veramente di cattivo gusto. Non è una questione di, diciamo, di libertà di espressione, ma dell'opportunità di una televisione di trasmettere un film dove di fatto la trama è un incitamento all'omicidio del Presidente del Consiglio e dell'uomo Berlusconi. Cattivo gusto e incitamento alla violenza, sostengono dunque dal Popolo della Libertà, altro che censura. Polemica tutta italiana, ripresa anche dallo spagnolo El País, che sul suo sito scrive: la pellicola è stata trasmessa da uno dei pochi canali che non appartiene alla famiglia del Presidente del Consiglio. Stupito dagli attacchi, si difende intanto il giovane regista Berardo Carboni. Nel momento in cui è stato fatto, era la volontà di fare qualcosa di provocatorio, di dare un segnale forte, ma che fosse proprio il contrario della violenza, che fosse un racconto della violenza che in qualche modo la ostentasse del tutto. Il protagonista del film è un personaggio negativo, un personaggio comunque qui è... non ci si può riconoscere. Mi stai dicendo che vuoi assassinare il Presidente del Consiglio? Assassinare! Brutta parola. Paola Nania, GR24, Il Sole 24 Ore, Roma. 13:46, GR24, extra large. Abbiamo sentito le parole del Presidente del Consiglio Silvio Berlusconi dall'Aquila a proposito dell'Election Day. Ha detto: la Lega ha minacciato la crisi, per noi una scelta di responsabilità, quella di votare in giorni distinti. E poi, per quanto riguarda la cronaca, un gioielliere ha sparato e ha ferito gravemente un bandito, sono tutte e due all'ospedale, è avvenuto a Milano. Lo sviluppo di quello che è accaduto ieri a Posillipo con il delitto del re del grano, sono stati fermati 3 presunti assassini, 2 sono di nazionalità rumena. Poi, sempre per quanto riguarda le notizie dall'Abruzzo, abbiamo sentito la cronaca, le lezioni degli studenti che ripartono dalle tendopoli. Andiamo ora invece in tutt'altra regione del mondo, perché la Russia ha dichiarato conclusa l'operazione antiterrorismo in Cecenia, che aveva avviato nel 1999, 10 anni fa. L'annuncio è arrivato dalla Commissione antiterrorismo russa, che ha spiegato che dalla mezzanotte sono state revocate le norme speciali introdotte per fronteggiare i separatisti islamici. Con noi c'è Gigi Donelli. Gigi, una scarna notizia, ma che significa molto. Sì, una notizia importante per separatismi e separatisti, visto che tutti sono coinvolti in una regione che da 15 anni è di fatto il punto critico per la Russia. Quindi la guerra contro il separatismo ceceno inizia nel 94, poi 10 anni fa esattamente viene trasformata in una operazione di sicurezza, ma tant'è, guerra è, morti sono, cannoneggiamenti e città distrutte. Una regione nel sud della Russia, con 1,5 milioni di abitanti, indispensabile per il controllo del Caucaso centrale e che confina con la Georgia, dunque si proietta nel Mar Nero. Negli ultimi 15 anni ha rappresentato di fatto la sfida più esplicita e sanguinosa al potere centrale, e soffocare questa ribellione ha imposto una guerra sporca che ha provocato enormi lutti e costi, e per questo è una notizia importante. Ecco, quali sono le prime conseguenze di questa decisione? Ma le prime conseguenze pratiche, come annunciate dal presidente della Federazione Russa Dmitry Medvedev, è il ritiro di 20.000 uomini. Quindi 20.000 uomini verranno ritirati, un numero impressionante, ma è opportuno ricordare che 30.000 ne resteranno e sulla base dell'accordo stipulato 2 anni fa rimarranno in maniera permanente, perché rientrando la Cecenia a pieno titolo nella struttura federale russa torna ad essere il suo confine meridionale. Per semplificare un po', Gigi, chi comanda ora Grozny? Bella domanda. Formalmente Ramzan Kadyrov, 32enne, figlio erede di una etnia e di un gruppo di paramilitari che di fatto a un certo punto della guerra si è schierata, ha cambiato campo. Prima era nel mondo del separatismo, suo padre venne ucciso, lui fece una scelta che oggi appare saggia, si schierò con Putin e divenne l'uomo di fiducia. Grazie a Gigi Donelli, un'area cruciale anche questa del mondo, e all'estero restiamo. Giulia Crivelli, buongiorno. Buongiorno. Siamo sulle pagine dei giornali stranieri. Partiamo con una notizia che dà Le Figaro, che è un po' una notizia copertina. Sì, in copertina sulle Figaro c'è una bella foto di Daniel Barenboim, uno dei più sicuramente dei più bravi, dei più famosi direttori d'orchestra in questo momento, argentino, di origine ebraica, è forse una delle persone che negli ultimi 20 anni si è battuta di più per ripristinare, per tenere sempre vivo il dialogo tra arabi e israeliani, e dal Cairo, dove ha tenuto un concerto, lui ha persino riuscito a suonare Wagner a Tel Aviv, cioè ha già fatto delle cose incredibili, all'insegna del dialogo ha lanciato l'ennesimo appello: vi prego, dialogate, tutti gli arabi che vivono in Israele, ma naturalmente anche quelli che vivono fuori Israele, riaprite il dialogo con Israele, perché la pace passa solo per il dialogo. Giulia, paese che vai, sciopero che trovi? Sì, questo è naturalmente, ognuno ha le ragioni diverse per scioperare, queste le potremmo chiamare le quote pesce dell'Unione Europea, che hanno scatenato le reazioni dei pescatori francesi e che hanno di fatto bloccato la Manica e molti altri porti. Il Times, che ovviamente per ragioni geografiche dà conto del blocco della Manica dalla sua parte, riporta anche online che adesso ci sono anche delle compagnie tipo la PNO che a questo punto minacciano di boicottare il porto di Calais, o comunque di fare a loro volta delle azioni di forza, perché tutto quello che è non soltanto trasporto turistico, che forse in questa stagione è il meno, ma naturalmente il trasporto merci, con queste proteste si compromette l'approvvigionamento dell'Inghilterra da parte dell'Europa, non soltanto della Francia. Insomma, noi abbiamo le marce dei trattori, qualcun altro ha le quote pesce. Grazie a Giulia Crivelli. E su queste note un consiglio per il weekend, perché il weekend lungo, insomma, al via da oggi fino a lunedì 20 aprile la 14ª edizione di MIART, la Fiera Internazionale di Arte Moderna e Contemporanea, che cerca di essere un appuntamento cruciale nel panorama dell'arte italiana e internazionale. Partecipano a questa vetrina d'eccellenza 140 tra le più importanti gallerie d'arte e circa 1000 artisti, di cui più della metà connazionali. Direttore di MIART Alessandro Cappello, al microfono di Adriana Fracchia. Dobbiamo puntare sulla qualità, ma credo che anche e soprattutto in questo momento di crisi non c'è un investimento più sicuro dell'arte. l'arte antica e il moderno storicizzato fino agli anni 70, per quello che vediamo noi, non paiono subire gli effetti della crisi, configurandosi come veri e propri beni di rifugio. Qualche esempio: Lucio Fontana, Piero Manzoni, Alberto Burri, Pistoletto, Pomodoro, Morandi, Marini, sono artisti su cui oggi i collezionisti hanno deciso di puntare in modo molto forte. Quindi la contemporanea italiana tiene meglio delle altre, grazie anche alle minori oscillazioni e a una generale maggiore oculatezza del mercato italiano. Quindi si può dire che investire in arte contemporanea conviene? Assolutamente sì, e dico che l'arte italiana in questo momento vive un momento di grazia, e lo si vede anche nel fatto che importanti gallerie, ma anche case d'asta, proprio in un momento di crisi per fare cassa, vendono gli artisti italiani. Più che mai Milano merita una manifestazione di arte moderna e contemporanea di livello internazionale, e per fare ciò abbiamo dovuto fare una maggiore selezione, riducendo le gallerie da 195 dello scorso anno a 140 di oggi. E la selezione sarà anche per il prossimo anno, diciamo, un motivo che continuerà, perché se vogliamo collocare Milano a livello internazionale, questa è la strada. Ed è tutto per questa edizione del GR Extra Large. Alessio Maurizio e Anna Migliorati in studio, al coordinamento Daniele Biacchessi, in regia la parte tecnica Peter Bescapè. Alle 18 e alle 22 vi ricordo ancora una volta le nostre finestre speciali sul dopo terremoto in Abruzzo. Extra Large torna domani a partire dalle 13. Buona giornata. GR 24, il sole 24 ore, direttore Gianfranco Fabi.